Italia in controluce. Buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con le storie della cronaca, grandi e piccole, che ci raccontano dell'Italia vista in controluce. Milano non è più la capitale culturale d'un tempo. No, Milano resta la città più in fermento d'Italia. La cultura non porta sviluppo economico. No, al contrario, la cultura è un volano economico e per un paese come l'Italia forse è il vero volano dello sviluppo su cui conviene puntare. Un dibattito aperto e che, come si vede, non si chiude mai e che si intreccia in questo caso con le prossime elezioni comunali di maggio. Cristina Carpinelli. Salvatore Carruba, lei è in qualche modo una delle persone che ci è venuta in mente subito parlando di cultura a Milano, perché dal suo osservatorio forse ci può dare la fotografia di questa città. Intanto è vero, come si dice ormai anche nei bar, che Milano sembra aver perso un po' quello smalto del tempo passato, soprattutto quando parliamo di iniziative teatrali, iniziative culturali? Ma io dico sempre che anche a Parigi non ci sono più Jean-Paul Sartre e Aron, ma non per questo si stracciano le vesti, o a Londra non c'è più Bertrand Russell. L'epoca della cultura di massa sicuramente porta un appiattimento e anche un abbassamento della qualità, questo in tutto il mondo. Detto tutto ciò, io credo e continuo a sostenere, lo dicevo da assessore, lo dico adesso da cittadino, che Milano resta indubitabilmente la città più viva in Italia e fra le più vive in Europa per quanto riguarda la produzione culturale, la produzione teatrale, musicale, che non ha molti paragoni, ripeto, in Europa, con tante orchestre stabili, con tantissimo teatro, teatro anche d'avanguardia e moderno, organizzazioni varie, quindi insomma a Milano è difficile annoiarsi da questo punto di vista. Credo che quell'immagine sia un pochino stereotipata di una Milano addormentata e ripiegata in se stesso. Sicuramente se guardiamo anche proprio gli indicatori che pubblica ogni anno il Sole 24 Ore, vediamo che dal punto di vista della cultura Milano è messa sicuramente meglio di tantissime altre città italiane. Quindi secondo lei è anche un po' il luogo in cui i giovani artisti possono avere più possibilità di esprimersi, se si parla soprattutto di avanguardia teatrale, se si parla di sperimentazione nei teatri? Ma con tutti i limiti che ci sono per queste produzioni in Italia direi di sì. Il punto è che nel nostro paese l'avanguardia è scoraggiata, nel senso che il finanziamento pubblico premia soprattutto la storia, premia chi c'è già, come al solito in Italia. In Gran Bretagna recentemente hanno tagliato drasticamente i finanziamenti alla cultura, tuttavia hanno trovato modo di finanziare ugualmente delle realtà nuove proprio perché si cerca di privilegiare l'ingresso di nuovi attori. Quindi questo è un male italiano. Detto questo, secondo me, con tutti questi limiti, comunque il mercato della produzione e dello scambio dell'arte contemporanea è Milano, non c'è niente da fare. Questa è la fotografia di un ex assessore alla cultura milanese rispetto a una città che, nonostante tutto, non vuole dirsi vinta e resiste sia a destra che a sinistra. La cultura, anzi, ultimamente, a dispetto di quanto viene sostenuto, sta diventando motivo di discussione e fiore all'occhiello anche nelle campagne elettorali. Apripista è stato Nichi Vendola in Puglia quando con piccoli interventi ha permesso la riapertura di teatri di Rione e li ha dati in gestione ai giovani. I giovani hanno risposto e anche la gente ha cominciato a spegnere la televisione almeno una sera a settimana e a andare a teatro. L'esperimento dunque funziona se applicato capillarmente in qualsiasi situazione. La cultura sviluppa poi un indotto che non è praticamente quantificabile, crea lavoro, turismo, giro d'affari e visibilità. In preparazione della corsa alle amministrative, la città di Letizia Moratti ha messo in piedi un cartellone di iniziative culturali da leccarsi i baffi, mostre di prestigio internazionale, prime teatrali sostenute dal comune, ma non solo. Milano è diventata il luogo in cui si incontra il design, il posto in cui si sperimenta più in Italia. Forte di quest'humus, anche il candidato per il PD, Giuliano Pisapia, ha messo in piedi iniziative che dalla cultura partono anche per andare a prendere l'elettorato indeciso. Dunque, la cultura diventa un tema di frontiera. Ci racconta così Anna Puccio, una delle organizzatrici autrici della Tre Giorni di Cultura messa in piedi dal Comitato Pisapia sabato 16, domenica 17 e lunedì 18. I dettagli delle iniziative si trovano online, ma il dato interessante è che finalmente la cultura è entrata in campagna elettorale. L'iniziativa nasce dal lungo lavoro che era già iniziato durante le primarie sulla elaborazione del programma della cultura per Giuliano Pisapia. Questo è poi diventato proprio un tavolo cultura e creatività durante il lavoro dei famosi mille per l'officina che hanno composto il progetto della candidatura di Giuliano Pisapia e in particolare appunto al gruppo cultura. Il tavolo di lavoro della cultura ha voluto fare un esperimento di mettere in pratica con degli esempi già delle idee e proposte che sono contenute all'interno del programma. È un po' la sensazione che si ha guardando anche queste iniziative che finalmente anche sul tema della cultura si può far presa, cioè insomma si può utilizzare la cultura anche per fare campagna elettorale. Moltissimo, difatti diciamo è uno dei quattro temi principali, possiamo anche dire dei quattro temi proprio forti della campagna elettorale, insieme a economia e lavoro, trasporti, mobilità e aria, no? La cultura è proprio quasi un perno intorno al quale gira un po' tutto. Noi abbiamo puntato molto su questo perché ci siamo resi conto nell'affrontare il tema culturale, e qui parlo anche già proprio di mesi fa, insomma in fase di elezioni in primaria. Ci siamo resi conto come l'aspetto della cultura veramente copriva e si interfacciava con tantissimi altri aspetti notevoli e importanti della vita della città, per esempio la cultura come coesione sociale o la cultura come lavoro, la cultura comunque come evidentemente sviluppo, e quindi il fatto di la cultura è i giovani, no? La cultura è chi appunto un po' se ne frega della politica, però in realtà non si rende neanche conto, ma fa cultura in tutto quello che fa, quindi la creatività. Poi una città come Milano, anche se uno poi un po' se lo dimentica, queste cose vengono appunto perché sono disperse, non in collegamento, non riescono a fare rete, non vengono ascoltate, sembra che non ci siano, no? Invece facendo questo grande lavoro di mappatura, di analisi, abbiamo proprio abbiamo avuto la conferma che avevamo avuto un'idea giusta, no? Che questa idea funzionava. Ed è tutto anche per la puntata di oggi. Italia in Controluce torna alle 13:30. Potete scriverci controluce@radio24.it. Buona giornata.